Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Sono 200 milioni messi a suo tempo a disposizione dal MIUR, il Ministero per l'Università e la Ricerca, con il bando Smart Citizen Community and Social Innovation, bando rivolto alle regioni della convergenza, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ora la prima fase della procedura di selezione si è conclusa e su 106 proposte pervenute 38 sono state selezionate per la fase esecutiva, cioè quella del finanziamento. Ci interessa monitorare l'andamento di questo bando, anche perché è una sorta di apripista, dato che il MIUR emetterà poi dei bandi analoghi validi anche per tutte le altre regioni italiane, quindi la circostanza ci permette anche di capire come intende muoversi il Ministero su questo terreno. A tal proposito, Chiara Albicocco ha intervistato Domenico La Forenza, coordinatore dei progetti Smart City del CNR, il Consiglio Nazionale della Ricerca, che è presente in 26 dei 38 progetti selezionati. Sentiamo com'è andata. Tutto questo nasce perché siamo in una fase di implementazione di quella che viene chiamata l'agenda digitale europea, già voluta da José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, con un documento del 2010, e uno dei pilastri di questa strategia si chiama appunto agenda digitale, che viene poi declinata in ogni paese dell'Unione secondo una certa forma. L'Italia l'ha declinata e un pezzo dell'agenda digitale italiana si chiama appunto Smart Cities and Communities, Smart Inclusione e così via, cioè tutto quello che è più intelligente relativamente alle città e all'includere nel giro decisionale, politico, democratico, le persone sempre più. Il CNR, ovviamente lo sappiamo, è sempre in prima linea nell'innovazione, nella tecnologia del nostro paese, quindi non ci stupisce che sia dentro a 26 progetti su 38, però forse dobbiamo raccontare agli ascoltatori che tipo di progetti alla fine sono stati presentati, perché sono stati presentati all'interno di ambiti, di grosse nicchie tematiche. Sì, diciamo gli ambiti censiti sono 9. Ambiti che sono caratterizzati tutti da un prefisso che è smart, quindi c'è la smart mobility, la mobilità intelligente, smart health, diciamo la sanità digitale, smart education, riguarda diciamo tutti gli aspetti legati alla scuola e alla introduzione di nuove tecnologie digitali per aumentare la qualità e l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico. Gli aspetti legati a tecnologie importanti sia per la scuola, sia per la medicina, sia per quanto riguarda l'e-government, il governo diciamo dal punto di vista del management, e sono legati agli aspetti del cloud computing, cioè il calcolo secondo un'ipotesi di una rete che nessuno sa dove sia, ma in realtà lavora per noi. Un altro ambito, e il quinto, è quello che riguarda la cultura e il turismo. Abbiamo un sesto ambito che riguarda tutto quello che riguarda le energie rinnovabili. Abbiamo un ulteriore ambito, dovrebbe essere il settimo ambito, che riguarda l'energia, l'efficienza del sistema energetico. L'ottavo è quello che riguarda sempre smart mobility, ma declinato su un aspetto dell'ultimo miglio, cioè la logistica, di cui il paese, per noi il nostro paese è molto importante. Le merci arrivano via mare e a un certo punto devono essere trasportate da qualche parte via ferrovia e via diciamo gomma, e tutto questo richiede un'organizzazione logistica importante. L'ultimo, e non per questo il meno importante, riguarda invece le risorse naturali sostenibili, quindi diciamo i rifiuti, il trattamento dei rifiuti, tracciabilità. Sono ambiti che gli ascoltatori di Smart City conoscono bene e quindi direi forse che è il caso di entrare in dettaglio specificando una cosa, che questi sono idee di progetto che sono state presentate, sono passate al vaglio e adesso devono affrontare una fase esecutiva per essere finanziate, perché ogni progetto alla fine riceverà qualcosa come 15 milioni di euro, quindi devono essere progetti molto strutturati. Attualmente, se noi ci focalizziamo solo su quelle che sono le regioni della convergenza, noi notiamo che per esempio una importantissima attività viene fatta che prevede per esempio ben sei idee progettuali, riguarda la sanità digitale, smart health. Ecco, sì. Ora qual è il punto? È che in queste 38 proposte qualcuno al Ministero diciamo ha informato i partecipanti che si dovrebbe tendere a organizzare e integrare il più possibile le proposte progettuali. Quindi ad accorparle, diciamo i progetti che possono avere delle similitudini, accorparli. Io ritengo che sia arriverà una forma, una via di mezzo, per cui non tanto un progetto per ogni ambito, ma almeno un paio, tre progetti per ogni ambito, che però dovranno coordinarsi tra loro. Le faccio un esempio, Smart Health, ci sono sei proposte presentate nella parte società dell'informazione. Ecco, magari entriamo un attimo nel dettaglio, ci faccia capire che tipo di progetti sono. sono progetti che tendono a monitorare lo stile di vita a supporto del benessere e della prevenzione del cittadino, nonché al miglioramento dell'interazione fra, per esempio, il cittadino e le strutture sanitarie, o anche tra le strutture sanitarie stesse. Quindi il concetto qual è? Cercare di, utilizzando tecnologie informatiche e telematiche sempre più sofisticate, utilizzando strumenti che ormai sono alla portata di tutte le tasche, pensiamo ai nostri smartphone, ai cellulari, che saranno via via integrati con nuove funzionalità, abilitati a essere integrati con nuovi oggetti, le immagini, oggetti che permettano la misurazione della pressione, oppure sensori che riescono a derivare alcuni indici medici o fisiologici. Certo. E tutte queste informazioni saranno poi opportunamente veicolate attraverso delle reti che saranno sempre più intelligenti, stoccate all'interno di questi oggetti che vengono chiamati cloud, queste nuvole informative, al fine di ottenere dei metodi sanitari diagnostici organizzativi in tempo reale. Uno degli ambiti è sicuramente quello culturale, del nostro grande patrimonio culturale, e lì che tipo di progetti abbiamo in serbo? E ci sono progetti nell'ambito Smart Culture and Tourism che riguardano, per esempio, lo sviluppo di applicazioni che tendono a rendere più fruibile il nostro patrimonio culturale. E tutto quello che riguarda, per esempio, la possibilità di selezionare un monumento, fotografarlo, avere informazioni su di esso, mettere in relazione dove il monumento si può andare a trovare in altri posti della città in forme simili, e mettere in relazione, acquistare un biglietto di un museo, sapere qual è il mezzo per arrivare. Tutte queste informazioni lei se le immagina in maniera integrata e disponibili sul suo cellulare. Insomma, la speranza è di aver fornito qualche indicazione utile a quegli amministratori, per esempio, che pensassero di partecipare ai prossimi bandi del MIUR. Io vi saluto, appuntamento a domani, buona serata.